Sono Michele Facci, candidato al Comune di Bologna per il Popolo della Libertà, a sostegno di Alfredo Cazzola. Sono stanco di vedere Bologna trascurata, degradata e sempre più insicura. Il 6 e 7 giugno possiamo e dobbiamo reagire. Io lo farò con la mia candidatura. Voi potete farlo con il vostro voto. Riprendiamoci la città. Insieme possiamo farlo. Alle elezioni comunali di Bologna scegli Alfredo Cazzola sindaco. Vota la lista Popolo della Libertà. Dai la preferenza a Michele Facci.